strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti anche a questo primo appuntamento dell'anno con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E in apertura d'anno apriamo con un'intervista particolare con Radek Jelinek, che è il presidente e il CEO di Mercedes-Benz Italia, a cui abbiamo chiesto di fare un po' una panoramica di quelle che sono le aspettative di quest'anno per il brand tedesco, ma soprattutto di capire quali saranno le principali novità che riguardano gli automobilisti italiani. Ascoltiamo. Innanzitutto dobbiamo cominciare a parlare della politica, dei comuni, della industria, per fare un piano intelligente di rinnovo del parco circolante. Abbiamo in Italia 14 milioni le macchine sotto Euro 4. Quindi non è solo vendere macchine elettriche, sennò rinnovo, diciamo, 360 gradi. Secondo me tranquillizzare i nostri clienti per farli capire che possono anche domani comprare una macchina diesel, diciamo, pulita e non solo elettrica, eccetera, eccetera. Anche le elettriche ibride, però alla fin fine è importante avere una discussione aperta, trasparente e onesta. Negli obiettivi 2020 di Mercedes, due grandi temi, i SUV e le plug-in hybrid, che saranno probabilmente il tema un po' per tutte le case costruttrici anche in Italia, ma soprattutto per Mercedes il lancio di nuovi modelli, la nuova classe S, la classe E, l'EQA, il segmento compatto completamente elettrico, e poi le due AMG. Ci racconti un po' qualcosa di queste auto? Allora, difficile capire dove cominciare, no? Perché sono tante macchine che lanciamo l'anno prossimo. Secondo me è importante far il nostro cliente capire c'è una scelta fra la macchina fully electric fino al diesel, benzina, veramente economica. Io penso che anche qui è importante capire dove sei. Se la città, la zona rurale, per clienti alla fin fine vogliono una certa certezza. Oggi hanno una incertezza pazzesca perché non sanno cosa comprare, e ci vuole veramente un rinnuovo del parco circolante, punto. Quindi noi, penso, con i nostri nuovi modelli GLA, anche le macchine A, B, ibride, elettrica, smart 100% elettrica, abbiamo tutto quello che un cliente potrebbe desiderare. Il tema è considerare bene i desideri dei clienti, perché alla fin fine la individualità per il trasporto, per la mobilità delle persone, per noi un diritto, e c'è anche bisogno veramente importante, e lì dove fra la politica, fra i comuni, anche la industria, dobbiamo essere molto più bravi. Tra tutte queste esigenze individuali, come diceva lei, ognuno ha la sua ovviamente, emerge però uno spirito sportivo degli italiani, ed emerge soprattutto dai dati del 2019 con le AMG, che hanno avuto un successo senza precedenti. È come se un po' la passione degli italiani nei confronti dell'auto non fosse mai morta. Lo so che c'è un po' di odio nella Formula 1, perché gli italiani ovviamente sono la maggioranza ferraristi. Noi abbiamo dominato 6 anni il circuito. Secondo me 2020 veramente sarà un po' più complicato, perché Ferrari è veramente diventata competitiva. Penso che il prossimo anno sarà forse più competitiva alle nostre, o allo stesso livello, quindi ci sarà questa bella sfida fra due squadre. Però alla fin fine è così il mercato. Noi stiamo facendo tante cooperazioni fra di noi per poter finanziare queste tecnologie nuove, sia ibrido sia autonomo. Noi ad esempio facciamo tante cooperazioni con BMW, che il nostro competitore numero uno, però a livello tecnologico, se non abbiamo l'apertura, ecco, a condividere certe cose, non riusciamo. Certo, lei ha parlato della Formula 1, 6 volte campione del mondo costruttori, c'è anche un progetto chiamato Project One, che è una trasposizione su strada di una macchina da Formula 1. Oggi la Formula 1 sono le macchine ibride con un motore 1,6 litri, 4 cilindri, con quasi 900 cavalli, quindi una tecnologia pazzesca, veramente fanno i record delle gare. E lì abbiamo certamente un tema che alla fin fine dobbiamo sviluppare in concorrenza, ad esempio Ferrari, però anche con condivisione di certe cose, diciamo, dei salti tecnologici con altri concorrenti. E questo è assolutamente nuovo dell'industria, perché sempre fino ad oggi abbiamo fatto tutto da solo. Da soli. Adesso dobbiamo condividere, è difficile aprire le porte, dire, cioè, questo è il mio, questo è il tuo, cosa condividiamo, dove facciamo i limiti per lasciare il nostro marchio, diciamo, con i nostri main assets, no? Certo, abbiamo parlato fino ad ora del 2020, delle novità che ci saranno nel 2020, ci siamo lasciati un anno alle spalle difficile, come dicevamo all'inizio, un 2019. Cosa vuole dimenticare di questo 2019? Il gioco politico, dove abbiamo una tassazione dei fringe benefit per le macchine aziendali, un giorno così, un giorno cosà, doppio, triplo, poi niente, poi la metà. Abbiamo bisogno veramente per i nostri clienti, che sono quelli che pagano le tasse, quindi anche fanno delle apportazioni al PIL italiano e anche finanziare le opere pubbliche, dare la sicurezza, togliere incertezza per poter comprare le macchine, perché c'è tanta gente che vive questa industria. Un'ultima battuta riguarda l'elettrico, ci sono alcuni modelli, penso ad esempio alla Smart, che ormai saranno praticamente solo elettriche. Voi vi fidate tanto di questo mercato, o c'è già una richiesta per far ritornare ad esempio una Smart endotermica tradizionale? No, Smart diventerà da 2020 avanti macchina 100% elettrica, non c'è un passo indietro, un passo importante, un passo non banale, però secondo me è importante, perché c'è una parte della mobilità urbana che vuole la macchina elettrica, e quindi stiamo lavorando ad esempio in Italia con NLX sul tema dell'infrastruttura, delle colonnine, per dare al cliente quello che c'è bisogno per la mobilità urbana. Bene, allora ringraziamo il presidente e il CEO di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Continueremo a parlare tra poco di nuove tecnologie e di 5G nella seconda parte di Strade e Motori. Restate con noi. Ehi, è il momento del Dub Party! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio. Che fai, non ti scateni? Dobbiamo festeggiare, perché da quest'anno io sono in tutte le auto nuove con il sistema Dub Plus. Figo il Dub Party! E allora, party! Festeggia anche tu il grande cambiamento. Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema Dub Plus per l'ascolto digitale in auto e in casa. Scopri la magia del suono perfetto. Dibidi dobidi Dub. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come vi avevo anticipato nel corso della prima parte del nostro appuntamento settimanale, ci occupiamo adesso di nuove tecnologie, in particolare di 5G, questa nuova tecnologia di comunicazione che dovrebbe davvero cambiare e di molto la nostra possibilità di utilizzare dei dispositivi in movimento. Di 5G parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Michele Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, qualche settimana fa avete presentato questa tecnologia a Monza, non a caso, e tra un po' cercheremo di capire perché, ma facciamo un passo indietro. Che cos'è il 5G e soprattutto cosa cambia rispetto all'attuale 4G, quello che abbiamo oggi tutti noi sui telefonini? Ma innanzitutto 5G sta per quinta generazione di comunicazioni mobili. Però interpretare il 5G come una semplice evoluzione del 4G sarebbe fuorviante, profondamente sbagliato, perché le novità tecnologiche che il 5G abilitano di fatto ci consentono di introdurre una vera e propria rivoluzione che cambierà profondamente, come tutte quelle che l'hanno preceduto, il nostro modo di vivere, non solo quello di comunicare, ma la vita delle persone, abilitando quella che ormai è chiamata Digital Life e Digital Society. Di fatto tutte le precedenti generazioni di rete mobile indirizzavano prevalentemente necessità di servizio dei clienti residenziali. Se andiamo indietro e pensiamo al GSM, la prima delle tecnologie digitali di rete mobile, il GSM abilitava di fatto voce ed SMS. Da voce ed SMS poi abbiamo introdotto browsing ed email con il 3G, il video streaming, i social o servizi dati a throughput più elevato con LTE, il 4G. Il passaggio da 4G a 5G consentirà di fare un salto da questo punto di vista e servire esigenze di mercato più spinte dei clienti residenziali e soprattutto quelle di un ampio spettro di segmenti del mercato enterprise, grazie sostanzialmente a una caratteristica del 5G, che è quella di migliorare di un fattore 10 tutti i KPI, tutti gli indicatori di performance dell'LTE, del 4G. Quindi mi sembra di capire che sarà moltiplicata per 10 anche la velocità di connessione. Esattamente, il primo appunto la velocità di connessione, il cosiddetto throughput di picco. Saremmo in grado di gestire velocità in downlink, quindi la tratta che va dalla rete verso il cliente, superiore a gigabit al secondo, quindi avremo una tecnologia che è assolutamente in linea a livello di performance con quelle della rete fissa. Una tecnologia che ovviamente viene incontro proprio agli utenti che sono abituati a spostarsi, appunto, che hanno nella mobilità il loro elemento chiave, quindi chi meglio degli automobilisti potrà apprezzare questa nuova tecnologia, e non a caso l'avete presentata a Monza, che è diventato il primo autodromo 5G d'Europa. Ecco, analizziamo un po' nel dettaglio quali sono le applicazioni attuali e quelle nell'immediato futuro per chi si sposta in automobile, ovviamente sottolineando, come ha fatto lei, che si tratta comunque di un mercato business che voi cercate di intercettare con questa tecnologia. In chiave automotive l'avvento del 5G è sicuramente un elemento importantissimo, perché poi la guida assistita fa già parte delle auto moderne e come passo di avvicinamento verso la guida autonoma. Questa sarà un'evoluzione progressiva che passerà per l'implementazione di un numero sempre più elevato di livelli di assistenza, per poi virare verso i veicoli a guida autonoma. Per crescere e sviluppare sempre più questo settore sarà fondamentale arrivare alla connessione dei veicoli tra loro e allo stesso tempo dei veicoli con le infrastrutture che li circondano in tempo reale. E questo sarà possibile attraverso una nuova tecnologia che è la Cellular Vehicle to X, cosiddetta, mi scusi per l'acronimo. Tale tecnologia utilizza sostanzialmente due modalità di trasmissione tra loro complementari. La prima è una trasmissione a corto raggio che consente ai veicoli di comunicare l'uno con l'altro e con le infrastrutture circostanti, e l'altra è invece una comunicazione a più lungo raggio che utilizza proprio la rete mobile convenzionale e quindi il 5G per abilitare il veicolo a ricevere informazioni relative alle condizioni della strada, del traffico e di quanto non è direttamente visibile al conducente. Quindi un dialogo costante con gli altri veicoli, con le infrastrutture, in modo da poter migliorare non solo la cosiddetta guida autonoma, ma anche ovviamente la sicurezza. Assolutamente sì, perché sarà possibile abilitare diverse funzionalità. Innanzitutto quella che viene chiamata collision avoidance, quindi la possibilità di evitare collisioni con altri veicoli o con l'infrastruttura circostante. Di fatto ogni veicolo sulla strada utilizzerà la tecnologia 5G per trasmettere la propria identità, la propria posizione e la propria velocità in tempo reale. e questo è un computer di bordo, consentirà di combinare tali dati con quelli che provengono da altri veicoli e dalla rete per costruire in real time una mappa che il veicolo utilizzerà per evitare collisioni con tutti gli oggetti che lo circondano e con gli altri veicoli. Sarà possibile ottimizzare l'utilizzo della strada, perché di fatto i veicoli potranno viaggiare in posizioni molto più ravvicinate, come se fossero un convoglio di fatto, ottimizzando proprio gli spazi a disposizione. Sarà possibile cooperare nella guida, far cooperare nella guida i diversi veicoli in maniera tale da minimizzare il disturbo causato per esempio dai cambi di corsia o dalle frenate brusche tra i veicoli. Insomma, sarà possibile implementare una guida assistita che poi virerà appunto verso una guida totalmente autonoma nel tempo, che cambierà radicalmente il modo anche certo. di vivere la strada da parte dei conducenti e da parte delle persone a bordo, perché ecco, poi l'altro importante campo di applicazione è quello dell'entertainment, dell'intrattenimento, naturalmente non per il conducente, che renderà i trasporti anche più piacevoli, anche, sostanzialmente molto più piacevoli. Beh, quando avremo la guida completamente autonoma, perché no, anche per il cosiddetto conducente, che in realtà avrà un ruolo assolutamente marginale. Ecco, tutto questo ci sembra un futuro remoto, ma in realtà è già presente, perché ci sono dei progetti di espansione della rete 5G in Italia. Ogni operatore ha il suo, voi avrete sicuramente il vostro. Quando avremo l'intero paese in grado di ricevere informazioni con questa nuova tecnologia? Sarà un'estensione progressiva, naturalmente. Noi abbiamo lanciato il servizio 5G a giugno di quest'anno, abbiamo in mente un piano che porti gradatamente il servizio dai grandi centri urbani nelle aree remote, proprio perché, come dicevo poc'anzi, il 5G si dirige anche e soprattutto a casi di utilizzo del settore enterprise. Fin da quest'anno prevediamo implementazioni in aree più esterne, come distretti industriali, per abilitare i casi di utilizzo quali l'automazione industriale, piuttosto che aree remote per l'implementazione del cosiddetto fixed wireless access, quindi la possibilità di utilizzare la larga banda abilitata dal 5G per connessioni di rete fissa. Quindi sarà una progressiva diffusione del 5G che prenderà qualche anno e sarà driverata, proprio sarà indirizzata dai casi di utilizzo che i clienti evidenzieranno. Ecco, a proposito di clienti, noi abbiamo detto prima, questa è una tecnologia che probabilmente solo nella fase iniziale avrà come target una clientela business, ma probabilmente si allargherà ben presto anche ad una tradizionale clientela consumer. Quali sono i progetti di espansione in questo senso? I servizi che abbiamo lanciato sono diretti oggi sia alla consumer che alla business. Nel mercato consumer, oltre a un incremento delle performance, delle prestazioni, ad oggi disponibili sul 4G con l'LTE appunto, il 5G abiliterà dei casi di servizio nuovi, nuove applicazioni che possono essere il video 4K, 8K, la realtà aumentata o la realtà virtuale. L'immersive gaming l'intrattenimento arricchito, che di fatto consentiranno al cliente di trovarsi immerso in una realtà diversa, come se si trovasse allo stadio tra il pubblico o a fianco ai giocatori. Quindi sarà una pletora di nuovi servizi che il 5G consentirà di abilitare grazie alla più sostenuta velocità di trasmissione, ma anche a un'altra caratteristica innovativa rispetto al 4G, che è la latenza, e quindi la rapidità certo. La rete consente di rispondere alle sollecitazioni da parte del terminale nell'accesso a una qualsiasi applicazione. Che è la latenza è il vero elemento aggiuntivo per tutto ciò che riguarda l'automotive, visto che poi i tempi di risposta quando si tratta di guidare a velocità sostenute sono fondamentali e sono importanti. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Michele Gamberini, Chief Technology and Information Innovation Officer di TIM, che ci ha raccontato un po' quella che è una rivoluzione ormai entrata nelle nostre case, ben presto ce l'avremo tutti sui nostri telefonini, quella del 5G. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.